diamante entro i vapor, tu sei Gioconda, come la Chimera, bella gloria, bravezza e vincitor. Bella tu sei, tu sei Gioconda. La dea di tutti i cori, la dea di tutti i cori, ed ella la mia sovrana, e fino alla prima ardore il mio non l'ama, no, no, no, non l'ama. Il tuo bastardo risero te cerca da quelli trovarti rivederti non sarai istante dolce allor prima di te più vivere io non potrei così amor prima di te più vivere Oh! passioni del cuore s'assonnano in placido oblio. Mi ferme soltanto l'amore dell'uomo, l'amore di Dio. Ai campi, ai prati, ritorno e verso gli evangeli, sento attratto. Essere morta. te fra inimio mia fedel da ive Dio fra inimio mia fedel al desiato amante stende la mano al ciel vien vien a sento sei fra gli alberi o tenia mia cielo pietoso rendina, rendina questo cuore, ora siccome l'angelo che venne al suo pudore, ma se una nuova impura canto candor m'assura, viva di sua virtù, di sua virtù, priva di sua virtù. Di sua virtù che non la vegga, io non la vegga più, io non la vegga più. Priva di sua virtù. Venero è l'aura che io respiro, indegna, ella invitava il traditor, non mente no Callistene, io stesso vidi, è un brando, un pugnal non avea. Necessaria è la vendetta, necessaria è la vendetta, sparverà di sangue nerito la mia destra punitrice, sul padarlo se divino e il vuole crudibrice e strapparli il cor dal letto, il perverso infido con perverso, il perverso infido con alla mai immenso affetto, ora immenso il mio furor, ora immenso il mio furor, ora immenso il mio furor, il mio furor, il mio. Yeah.

il padre, il padre mio. Oh, yeah. Domani forse spento per me il fiume assino perché mi trasse volente e arriva una mano crudel perché se poi mai amor non fui tra le crollanti mura del tempio scellerà un tuo sospir e poi voglio donar la vita. Sotto una sabbia legge potre surgano a mille denti e gregge e case santa poesia e l'ultimo bisogno dell'esistenza mia, dell'esistenza mia. Voglio che questo sogno sia la santa Sarebbe il cielo.